questo però lo riprenderemo a suo tempo, che in certe condizioni l'esito del giudizio può essere differente. Quindi nessuna di queste tre, ma dicevano i consigli, essere quelli che vanno con il peccato originale e con il peccato attuale, vanno all'inferno per essere puniti con pene differenti. Però rimaniamo così perché avremo poi tempo di prendere nel dettaglio tutte queste espressioni e quindi di poi approfondire argomento per argomento tutto mano a mano che, ecco, il decorrere della nostra disamina ci porta verso tutte queste questioni. Allora, oggi dobbiamo fare uno step successivo, no? Perché stiamo cercando di seguire anche in questa disanima il metodo, diciamo, oggi più in auge, a mio avviso, sotto questo punto di vista, perfettamente accettabile, che è appunto quello di scrittura, tradizione magistero e poi riflessione teologica e sistematica degli argomenti. Siamo a questo ultimo step. Allora, ci introduciamo a questo step dicendo innanzitutto c'è qualche contestualizzazione storica da fare. L'età patristica, facciamo uno step indietro rispetto ai concili che abbiamo visto riguardanti un'età già avanzata del secondo millennio su questo argomento, perché per esempio la prima cosa è che gli interventi magisteriali su questo argomento sono stati così tardivi rispetto a dopo 1500 anni di storia, no? 1500 è un po' troppi, 1200 col Concilio di Lione, però sono comunque 1200 anni, no? Perché nell'età patristica ci si occupava prevalentemente del giudizio universale e della parusia. Come vedremo a suo tempo, questo fu favorito anche dall'interpretazione letterale, molto molto letteralista quasi, ecco, di alcuni passaggi dell'Epistolario Paolino o anche di altri brani del Nuovo Testamento che sembravano, come dire, suggerire una parusia imminente e quindi l'imminenza del giudizio universale e quindi della separazione definitiva, ecco, della Chiesa. Da ciò che Chiesa non è e da chi di Chiesa non fa parte. In realtà è vero che ci sono dei testi che volgono su questo, che potrebbero far pensare questa imminenza. Solo che, come stiamo capendo, e qui faccio come al solito i miei rimandi, no? Come stiamo capendo anche dalle catechesi su tenera amata, quando si fanno discorsi di questo genere, quindi presto, tardi, bisogna semplicemente capire ma su che frequenza temporale ci stiamo ponendo. Perché il libro dell'Apocalisse conclude dicendo, mettendo in bocca a Gesù, ecco io vengo presto e porterò con me il mio salario. Ora, se qualcuno degli ascoltatori in diretta o in differita si pensa che 2022 anni, vabbè, 2022 rispetto, facciamo circa 2000, poco meno, rispetto all'ascensione di Gesù, sia presto, alzi la mano, presto, 1900 anni, quando tu dici a qualcuno ci vediamo presto, cioè non intendi questo, no? Quindi la scrittura mente o Gesù ha detto il falso? No. Per capire il senso di quel presto bisogna ricordare, ecco perché bisogna vedere su quale frequenza temporale ci si pone. L'abbiamo imparato dal libro di Tenera Amata che per esempio la frequenza ordinaria, cioè l'unità di misura fondamentale del tempo sul pianeta Terra, questo non ci serve Tenera Amata, lo sappiamo comunque, è il secondo. Ma quello che noi non sappiamo e forse non sapevamo, forse qualche scienziato lo sa, ma non certamente molti, ci sono altre frequenze con cui si possono misurare il tempo. Molto molto più lente, molto molto più infinitesimali. E ci sono delle frequenze certamente anche molto molto più intense. Ecco, allora, se la Sacra Scrittura dice ai tuoi occhi, parlando di Dio, il giorno, 1.000 anni sono come il giorno di ieri che è passato. E San Pietro, nelle sue lettere, citando questo brano, dice: ricordate, fratelli, davanti al Signore un giorno è come 1.000 anni e 1.000 anni come un giorno solo. Allora, se sono passati circa 1.900 anni dall'ascensione, in realtà non sono passati manco 2 giorni, giusto? Perché se un giorno vale 1.000 anni, allora capite che se ci poniamo su questa frequenza temporale, se tu dici a un amico: ci vediamo presto, insomma, se non sono passati neanche 2 giorni, stai ancora in tempo, stai. Non diciamo che ci vuole almeno una settimana. Dico, se una persona dice: ci vediamo presto, e si fa vivo 3-4 giorni dopo, ha detto la verità. Certo, se si fa vivo un mese dopo è un po' troppo. Ok? Pensate se avesse ragione, così facciamo un'altra intercommistione, come dire, come io sospetto. Quindi Luisa Piccarreta, Gesù a Luisa Piccarreta gli dice che ha suddistinto la storia a blocchi di 2.000 anni, partendo dalla creazione dell'uomo, situabile circa 4.000-4.500 anni avanti Cristo, si va avanti per blocchi di 2.000, giudizio universale, diluvio universale, circa nel 2.000 avanti Cristo, venuta di Cristo. Poi ci sono il primo e il secondo combattimento escatologico. Se la storia va avanti nei momenti nevralgici a salti di 2000, significa, mo sto fantasticando un po', no? Che adesso sono passati 2 giorni, ma la parusia presumibilmente, stando a questa calendarizzazione, arriverebbe intorno a 4.000. E quindi, se agli occhi del Signore 1.000 anni sono come un giorno solo, sono passati 4 giorni. E quindi il nostro Signore evidentemente ha detto la verità, se lo sappiamo che dice la verità, no? Però sto cercando di far capire, no? Allora, però, in età patristica, tutte quante queste considerazioni evidentemente non sono state fatte, almeno non in questi termini, no? C'era. E quindi però il giudizio particolare è stato un pochino trascurato, nonostante, abbiamo visto anche la volta scorsa, no, che i brani biblici che parlano del giudizio particolare ne fanno comprendere l'esistenza, certamente in maniera non proprio diretta, no, ma indiretta, la stragrande maggioranza di essi. Cioè, certo, dice, se il ricco pulone, stando nell'inferno tra i tormenti, se è morto vuol dire che è stato dannato, così come quell'altro stava nel seno di Abramo, quindi il povero Lazzaro, no? Oppure il buon ladrone a cui Gesù dice che oggi sarà come in paradiso. Ora, c'è stato però un momento storico, è per questo che poi sono arrivati i concili, in cui il tema del giudizio particolare è stato posto, come dire, al centro dell'attenzione teologica. Quando? E soprattutto perché è stato in concomitanza con l'avvento della scolastica, che è situabile nella sua fase matura, anche se c'erano stati dei prodromi nel XIII secolo, tant'è vero che San Tommaso, che ne è l'elemento di spicco, vive nel XIII secolo e, come abbiamo visto la volta scorsa, stava andando anche lui al Concilio di Lione insieme a San Bonaventura. Perché questa sottolineatura del giudizio particolare? Qui bisogna fare una parentesi un pochino erudita, mi si perdonerà, però bisogna dirlo, insomma, dell'onore del vero, no? Allora, sappiamo che in quel tempo, quindi anche in età scolastica, c'era stato, da qualche tempo prima, la riscoperta di Aristotele e dell'aristotelismo. Fu un fenomeno molto complesso perché Aristotele, come tutti i filosofi pagani, su alcune cose diceva il vero e comunque aveva un armamentario, uno strumentario, che fu quello che poi su San Tommaso, straordinario da utilizzare e molto adatto a una certa indagine teologica. Però c'erano anche dei passaggi molto molto ambigui, molto eterei, no? Adesso devo fare un riferimento un po' tecnico, ecco. Aristotele distingue nell'atto conoscitivo l'operazione che compie l'intelletto possibile, che è fondamentalmente passiva, e quella che opera l'intelletto agente per astrarre un concetto, un'idea, da una realtà sensibile da cui derivano tutte quante le forme primordiali di conoscenza. In alcuni passaggi dei suoi scritti, questo intelletto agente sembrerebbe non avere natura individuale, quindi è una sorta di macroanima del mondo e che quindi eserciterebbe, che aiuterebbe tutti quanti gli intelletti degli esseri umani in maniera un po' immanentistica e impersonale a compiere questo processo. Sto cercando di farlo il più semplice possibile, se no ci dobbiamo passare la serata intera a parlare di queste cose, no? Ma attenzione, se l'intelletto agente non avesse natura individuale, sarebbe problematico affermare l'individualità dell'anima. E quindi avviene come dire, lo sminuimento inaccettabile per il cristianesimo, dell'individuo. Adesso questi discorsi, anche a livello ecclesiale, possono anche sembrare un pochino. Perché sentirete molto spesso dire, l'abbiamo sentito anche di recente, anche in occasione di ben noti eventi pubblici, che l'individuo non è così importante, perché è più importante la comunità, la collettività. Penso che tutti quanti abbiamo sentito dire queste cose, no? In un'ottica cristiana, questo non è affatto vero. Perché chi è importante è sempre il singolo, certo, anche nel suo contesto sociale. È chiaro che la Chiesa è certamente la famiglia di Dio, quindi non ci sono degli individui, come dire, affastellati insieme come isole, come meteore. No, ma attenzione, al primo posto c'è sempre la persona. E poi il suo contesto d'insieme. Ed ogni uomo, in quanto persona, spiega proprio San Tommaso, è anzitutto un individuo. Ecco perché il giudizio particolare che riguarda la tua personale vita. Ed evidentemente è anche sempre la parte di un tutto. Io sono persona e tu sei persona. E ci si può concepire, guardate, parti di un tutto a parissimi livelli, no? Per esempio, c'è una famiglia, io sono, adesso insomma, siamo rimasti in pochi, ma c'è una famiglia di cui tu sei una piccola parte, io non sono la mia famiglia, sono parte della mia famiglia, no? C'è la comunità civile in cui noi siamo vissuti, no? Quando andavamo a scuola, noi eravamo uno, un alunno di tanti, di una classe, no? Quindi faccio parte della classe X, no? Quindi l'individuo che sta dentro questo gruppo. Le appartenenze di gruppo sono molto importanti. Io sono nato in una città, adesso vivo in un'altra, quindi si fa parte però della comunità sociale facente capo a quella città, con tutte quante le sue tradizioni, i suoi usi, no? Che per carità. Poi io sono italiano, non sono giapponese, quindi faccio parte dell'Italia. L'Italia fa parte dell'Europa e l'Europa fa anche parte della comunità del mondo. Quindi io sono un cittadino, come dire, un cittadino in gran termine. Faccio parte anche della razza umana. Quindi ci sono vari livelli, diciamo così, dell'essere parte del tutto. E la stessa cosa avviene a livello ecclesiale. A livello ecclesiale noi cresciamo, siamo battezzati, dopodiché. La Chiesa è proprio strutturata attraverso forme di aggregazione a livello comunitario, no? Ci sono le parrocchie, cioè tu fai parte di una certa parrocchia, poi fai parte di una certa diocesi e poi fai parte della Chiesa Cattolica che è universale. Ok? Allora, San Tommaso dice, se l'uomo è persona e la persona è individuo e parte di un tutto, è chiaro che deve avere due giudizi. Quello come individuo e quello come parte del tutto. Ed ecco i due giudizi, particolare ed universale. Particolare al momento della morte e riguarda la tua persona in quanto individuo, cioè quello che tu hai fatto davanti a Dio. E giudizio universale, adesso non, evidentemente non mettiamo le mani avanti, non anticipiamo i tempi. Quello che tu hai fatto a vari livelli, quindi in relazione a tutti quanti i vari tutto di cui tu sei parte, quello che hai fatto tu e quello che ti hanno fatto a te, viceversa. Giudizio universale, quando poi lo vedremo, sarà a quel poco che ci darò di conoscere uno spettacolo abbastanza interessante, dove tanti nodi verranno al pettine. La presenza di questo duplice giudizio, amici cari, deve darci una grandissima consolazione. Perché spesso e volentieri noi abbiamo delle ansie legittime di giustizia. Subiamo delle ingiustizie, vorremmo che ci fosse fatta giustizia. Ripeto, desiderio più che legittimo. Ma stare tranquilli che giustizia sarà fatta. Giustizia sarà fatta di ogni singolo già nel giudizio particolare, ma anche tu vuoi soddisfazione per presunti soprusi che hai subito. Sta tranquillo che se quei soprusi sono reali, non presunti, la soddisfazione verrà. Devi solo avere un pochino di pazienza. Noi fino a quando siamo in questo mondo dobbiamo imparare molto bene ad avere tanta pazienza, a sapere attendere. C'è un bellissimo rosario meditato che ogni tanto faccio con le meditazioni di un padre gesuita di vecchio stampo, il padre Giuliani, che dice: attendere è la grande parola cristiana, tant'è vero che la Chiesa ogni anno ci dedica un tempo liturgico, no? Avvento. Avvento è il tempo dell'attesa. Non soltanto l'attesa che ritorna a Natale e quindi che rievochiamo storicamente la nascita di Gesù, no? Ma anche quell'altra doppia attesa. Noi siamo in attesa del giudizio universale, siamo in attesa che il Signore bussi alle porte del nostro cuore il giorno in cui arriverà sola la morte, ma siamo anche in attesa, questa è la parte più bella, delle visite del Signore, che non è soltanto venuto nella storia, appunto nella storia 2000 anni fa, ma le venute del Signore sono un fatto indubitabile e sicuro esistente in ogni singola vita umana, particolarmente cristiana. È solo che bisogna imparare a saperle riconoscere e quindi ad accoglierle. D'accordo? Ora, che cosa succede al giudizio particolare? Per esempio, cominciamo un pochino ad andare a vedere. Anzitutto, che cos'è il giudizio particolare? Ci immaginiamo forse una corte celeste, quindi abbiamo le tre persone della Santissima Trinità che fanno, anche qui giù, no? Il giudice c'è il presidente, poi ci sono i giudici all'atere. Poi c'è il pubblico ministero che sarebbe il diavolo che ci accusa davanti a Dio e poi abbiamo l'avvocato difensore che sarà l'angelo custode. Potrebbe essere una scenetta anche divertente questa qui, no? Anche suggestiva, ecco. A quanto dicono i santi, San Tommaso in particolare, non è così, non è così semplicisticamente, è un attimo. Il giudizio particolare, dici, ma come? Ho campato 80 anni, quanto ci vorrà a farmi il giudizio su tutto quello che ho fatto? Sapete quanto ci vuole? Mi sa che qui siamo in termini di picchi secondi, di nanosecondi, perché immediatamente dopo morto, cosa succede? La luce di Dio. Dio è luce. Dicono, invade completamente la tua anima. Ricordiamo le parole bellissime di un salmo, no? Alla tua luce vediamo la luce, cioè in un istante Noi rivedremo tutta la nostra vita nella verità più assoluta che esiste, con la luce stessa di Dio. Lì non ci sono più possibilità di menzogne, di mentire, di nascondersi, di fare l'ipocrita, la doppia faccia. Zero. Cioè, messi dinanzi a noi stessi nella verità più assoluta. Tant'è vero che qualunque sia la sorte, dicono, l'anima l'accetta in maniera assoluta, perfino i dannati. Nel senso che i dannati non vorrebbero certamente essere dannati, ma capiranno in quel momento perfettamente che devono essere dannati, che è giusto che sia così. Poi si ribelleranno. Tanto è inutile che si ribellano perché se lo tengono lo stesso. Ma in quel momento capiranno che è giusto perché vedranno tutte le grazie sprecate, tutte quante le cose ricevute da Dio e non utilizzate bene, tutti i peccati mortali fatti, il male commesso, le persone che hanno sofferto per causa loro, tutte le volte in cui il Signore, quasi supplicandoti, gli è andato a bussare alla porta del cuore dicendo smettila, chiedimi perdono, è sempre possibile. Zero. E così vedremo perfettamente tutte quante le nostre miserie, mancanze e imperfezioni, e prenderemo coscienza che non esiste neanche un'imperfezione involontaria, non espiata, non risolta, non riparata, che prima che tu la ripari e la espii, ti permette di entrare in paradiso. Vedremo le cose nella verità, cioè noi non conosciamo, amici miei, bene noi stessi. E sarebbe assai bene, ricordate quel passo di San Paolo dove dice che ogni giorno affronta la morte, se noi fossimo capaci di chiedere al Signore, pregando quel bellissimo salmo, alla tua luce vediamo la luce, fare nostra la preghiera del pubblicano, del Vangelo di domenica scorsa, quella che la filocalia russa ne aveva fatto col pellegrino russo un cavallo di battaglia, no? Signore, abbi pietà di me che sono un peccatore. Ma non tanto per dirlo. Se noi fossimo capaci almeno di chiederlo al Signore, la luce, ma guardate, raggiungeremmo. E questa sarebbe la condizione ottimale per il giudizio particolare, quella che si chiama l'umiltà del cuore. Cioè, San Paolo dice, se io non sono consapevole di colpa alcuna, io non sono giustificato. Lo sai tu che non hai uno sguardo oggettivo su te stesso, per quanto ti sforzi. Ci sono molte cose, riguarda me, riguarda te, che io penso che non ho fatto niente di male, e invece davanti al Signore qualcosa di male c'è. Così invece a volte magari penso di aver fatto qualcosa di male, a livello di imperfezione, e davanti al Signore non c'era proprio niente di male. Siamo consapevoli di queste cose? Dobbiamo assolutamente prenderne la consapevolezza, ma siamo più consapevoli di un'altra cosa molto molto semplice, no? Ma chi di noi si può mettere davanti a Dio e competere? Cioè, il giudizio particolare è uno dei luoghi teologici dove si mette in risalto che io sono un poveretto e Dio è Dio. Davanti a Lui non ci possiamo nascondere. Ecco perché, a mio modestissimo avviso, avrà un giudizio particolare veramente leggerissimo. Sapete chi? Lo dico in continuazione nelle mie catechesi, devo farlo anch'io. E più lo facciamo, e meglio è. Noi siamo capaci di metterci davanti a Dio. Adesso. Io quando voglio far riflettere una persona, gli dico, senti un attimo. Dice, perché poi noi ci facciamo tutte quante le elucubrazioni mentali per giustificare quello che vorremmo fare. anche se la coscienza ci rimprovera, ma noi la tacitiamo con estrema facilità. Tu gli devi chiedere, senti un po', dice, ma io sto facendo questa cosa per questo motivo, non sapeste quante, perché noi ci diciamo sempre un sacco di balle, me l'avrete sentito dire infinite volte, no? C'è un comportamento motivato da un'intenzione profonda e mascherato da un'intenzione apparente. Questo lo facciamo quasi sempre. L'intenzione apparente deve darsi una parvenza positiva, ma l'intenzione nascosta è negativa. E quindi quell'azione agli occhi del Signore è negativa. Ma se tu continui a dare retta alla giustificazione che ti sei dato, tu questo non ci arriverai mai. E arriveranno poi le sorprese sul giudizio particolare, dove vedrai nostro Signore, io adesso semplifico, non funziona così, no? Però un qualche cosa del genere dovremmo percepirlo. Dice, ma figlio mio, ma che ti metti a fare? Tu puoi ingannare gli uomini, ma non hai imparato a vivere sotto il mio sguardo? Che non dobbiamo pensare a uno sguardo arcigno che ci sta sempre a guardare, che vuole controllare tutto quello che facciamo, che poi ci vuole punire. No, lo sguardo di Dio è uno sguardo amorevole, sempre, però è anche uno sguardo giusto. È uno sguardo, cioè, a Dio noi non possiamo prenderci gioco di Lui, irriderlo o pensare di poterlo ingannare, no? O anche solo di poterci nascondere davanti a lui, cioè, quell'altro bellissimo salmo, il salmo 138. Tu mi scruti e mi conosci, sai quando mi siedo, quando mi alzo, penetri i miei pensieri, ti sono note tutte le mie vie, ancora la mia parola non è sulla lingua, tu già la conosci. Ecco, tutte queste cose, a giudizio particolare, appariranno nella loro chiarezza più assoluta. E nella misura in cui, ripeto, le abbiamo fatte nostre fin da questa vita, ci prepariamo a questo evento. E inevitabilmente il giudizio particolare sarà leggero, no? Perché pensate, se io imparo a mettermi davanti a Dio e mi accorgo che una cosa che mi ero messo in testa di voler fare, ma non è tanto da fare, sia per la cosa in sé, sia per le intenzioni profonde che mi animano, è, come dire, un appunto in meno, diciamo così, che mi sconto qui dal giudizio particolare, sicuro 100%, anche se lì è tutto istantaneo. È un'istantanea presa di coscienza. Capite perché è così importante imparare a formulare dei corretti, sani e santi giudizi di coscienza, no? Quindi non ci sono tribunali, d'accordo? Non c'è il presidente del tribunale con il giudice all'atere, è la luce di Dio che invade la tua coscienza, è il essere in un istante capace di rivedere in un battito d'ali tutta la tua vita così come Dio la vede. E immediatamente la sentenza del giudizio particolare, in realtà, l'anima se la potrebbe tranquillamente dare da sé, in un certo senso se la dà da sé. Perché mentre qui noi possiamo illuderci, dire, ah, ma no, io sono tanto bravo, io non faccio niente di male. E che faccio di male? Non ammazzo, non rubo, non faccio niente. Lì non succede, perché tutto il male che hai fatto verrà fuori. Io vi invito, se qualcuno vuole farsi un regalino, se non l'avesse mai fatto, a leggervi il libro di Gloria Polo, Sono stata alle porte dell'inferi e dell'inferno, di questa dentista colombiana che, a causa di un fulmine, entra in coma e durante il coma vede quello che gli sarebbe successo se fosse morta in quella circostanza. Attenzione, chiaramente cattolica, praticante, non abbastanza. Che però non aveva fatto tutti i gatti colori, si leggono nel libro. Per esempio, era stata colpita dal fulmine perché portava la spirale. Spirale che tra i mezzi contraccettivi è il più grave di tutti, ma quella si faceva tranquillamente la comunione la domenica con tutta quanta la spirale addosso. Aveva commesso il delitto di aborto, credo, sì, credo di sì, se non ricordo male. e tante altre cose, eppure lei pensava di essere una bravissima persona, era una professionista stimata, e quindi che avrò fatto mai? Lì in quel momento capisce che se fosse morta sarebbe andata dritta dritta all'inferno, e non lo pensava. Per altro particolare, non da nulla, no? Adesso si ricomincia a parlare, speriamo che la piantino, ma se ne è parlato nei mesi scorsi, no? Dell'eutanasia. Imbecilli proprio, guarda. Cioè, vatti a leggere il libro di Gloria Polo e quando lei stava in coma, quindi coma vuol dire che tu non sei cosciente, ma la nostra anima coincide con la nostra coscienza. Ma noi che cosa ne sappiamo? Se non ce lo dice Gloria Polo, uno che c'è stato, che cosa accade in quei momenti? Come fa uno a sostituirsi alla volontà del malato? In certi casi è possibile farlo quando è provata l'eutanasia, a dire no, questo lo facciamo fuori che non merita più di vivere. Quelli stavano discutendo di staccare la spina, quella da, e Gloria Polo, chiaramente senza potersi far sentire perché i sensi erano fermi, perché stava in coma, ma pur stando i sensi fermi, lei viveva e come? Ma era consapevolissima, e quando si accorse che questi volevano staccare le spine, non poteva farlo, ma lei stava disperata perché dice: non è staccata la spina, se mi stacchi la spina adesso me la vado dritta dritta all'inferno. Grazie a Dio non l'hanno staccata la spina, ma lei racconta che questa cosa la viveva. Quindi dice: che te stacchi la spina? Perché il nostro Signore disse: io adesso ti vedi, vedi, questa è la fine che avresti fatto, io ti concedo di tornare sulla terra, purché tu racconti una quantità smisurata di volte, all'edificazione evidentemente di chi non ci crede, questa storia. Perché il nostro Signore non si contenta, vedete, questo è un enciclico di catechesi, qui stiamo vedendo la Sacra Scrittura, i concili e la riflessione teologica prevalentemente a riguardo di San Tommaso. Ma siccome molte volte queste cose non bastano, andate a mandare la rivelazione privata. E qualche raro caso ti fa fare un'esperienza personale a te, che ti convince proprio che le cose non stanno come la pensi tu, ma stanno esattamente come le insegni, in maniera sempre, come dire, asettica e ordinata, ma puntuale e precisa la Chiesa. E attenzione, poi avremo modo di rivederlo, no? Perché, per esempio, si va all'inferno? Perché? Si dice, no, che va all'inferno chi muore in stato di peccato mortale senza essersi pentito. C'è un momento, allora, noi dobbiamo calcolare che fino a quando siamo in questa vita, ecco perché nessuno mai spari giudizi definitivi sul prossimo, quello è un peccatore, quello è inconvertibile, oppure quello è un santo. Ma chi te l'ha detta queste cose qui? Cioè, durante la vita terrena, come qualche filosofo ha giustamente visto, noi siamo esseri assolutamente in divenire. Il divenire non è l'ultima parola delle cose, perché il divenire tende a qualche realtà che rimarrà stabile, d'accordo? Perché la salvezza o la dannazione sono realtà che poi rimangono stabili, ma noi qui siamo continuamente tendenti al divenire. Io oggi posso aver vissuto una grande giornata, domani mi posso impazzire, fare un peccato e perdere la grazia di Dio. Allora, che cosa succede? Che come ti trova la morte, nel momento in cui l'anima si separa dal corpo, meglio sarebbe dire dal cadavere, anche qui facciamo un riferimento anticipato a Tenera Amata. Comunque, dal momento in cui l'anima si stacca dal corpo, che cosa succede? Succede che la tua volontà, da quel momento in poi, come dire, si cristallizza nello stato in cui si trovava al momento della morte. Non può più tornare, il divenire è finito. Non c'è possibilità più di mutazioni. Come stavi, quello è. Sotto tutti i punti di vista, eh? Stavi in grazia, sei salvo. Non stavi in grazia, sei dannato. Quanta penitenza hai fatto dei peccati? Tanto meno e meno lungo purgatorio ti fai. Quanto meno ne hai fatti, non c'è più tempo. Non c'è più tempo. Quale grado di gloria hai conseguito? quello guadagnato con i meriti derivati dalle buone opere e dagli atti di virtù compiuti durante la vita mortale. Da quel momento il tempo è finito. Quanto dovrai stare in purgatorio? Esattamente tanto quanto se lo meritano le tue azioni, i tuoi peccati veniali o quelli mortali non sufficientemente riparati. Quanto sarai dannato, quanto sarai torturato dalla furia implacabile dei demoni? Né più né meno di quanto lo meritano il numero e la gravità dei peccati mortali che tu hai commesso in vita. Non di più. Quindi al momento della morte il divenire cessa, la volontà si radica. Ecco perché noi dobbiamo arrivare pronti al momento della morte. C'è molta gente che pensa, tutta contenta, vedete quanto siamo sciocchi, eh? Quello è morto nel sonno, gli è preso un infarto, non se ne è manco accorto, è andato a dormire, gli è preso un infarto, è morto e la mattina non si è manco svegliato, non ha sofferto. Beato lui. Beato lui. Sei sicuro che è beato lui? Dipende come è andato a dormire quella sera. Perché se prima di andare a dormire avessi detto una bestemmia, beato lui. Se c'ha dei peccati mortali di cui era consapevole e che non ha mai confessato in vita, non ha mai fatto la confessione generale, beato lui? Sicuro? Siamo andati in vacanza il Padre Eterno trascurando la messa domenicale per qualche decennio e non ha avuto tempo di ripararle fino all'ultimo. Voi sapete che per aprire un'altra finestra inedita su una mistica morta non molto tempo fa, apparentemente attendibile, ma questo non ci vuole una mistica, ci basta il buon senso. Io questo non sono d'accordo al 100%, ma non perché lo dice la mistica, ma perché non ho nessun dubbio che sia così. Voi sapete che ogni peccato che noi facciamo deve essere riparato con un atto uguale e contrario. Allora, se tu sei mancato da messa, che ne so, hai fatto la cresima e dopodiché hai fatto lo zingaro fino a 40 anni. C'hai 18-15 anni di messe domenicali perdute e festive. Allora, se fa presto a fare i conti, ci sono 52 domeniche e 6 feste comandate. Sono 58. Per 10 anni sono 580 messe. Per 20 sono 1060. Per recuperare 1060 messe perse, li hanno ammessa tutti i giorni per 3 anni di seguito. Tutto qua. Maria Simma diceva: mancate, mancate la messa domenicale, ma sappi che di ogni singola messa a cui sei mancato, o io devo confessarti, il Signore ti chiede conto, a meno che dopo che ti sei confessato non la recuperi. Evidentemente. Potendo significa anche a costo di qualche sacrificio, perché a volte non è che potendo significa a buon mercato, no, potendo significa potendo. Quindi siamo proprio sicuri che quello che è morto in queste condizioni, cioè, e la grande domanda che dobbiamo farci è ogni sera che andiamo a dormire, perché la notte, scusate, è figura del sonno della morte, no? Non c'è bisogno di leopardi, ricordare leopardi per capire questa cosa, forse perché della fatal quiete tu sei l'imago, a me sì cara vieni o sera, no? Tutti quanti penso che ricorderemo questi splendidi versi, no? La notte è immagine e figura della morte. E a te che mi stai ascoltando, facciamo prima quelli che stanno in diretta. Se questa notte, come dice Giovanni Vangelo, ti sarà chiesta la tua anima, tu che gli racconti al nostro Signore? Come stai? Sei arrivato preparato? Hai pagato i debiti? Hai pagato i conti con la divina giustizia? Hai riparato il male che hai fatto? L'hai espiato? Ne hai fatto penitenza? Stai in grazia? Ti sei confessato? Noi dobbiamo essere sempre pronti al giudizio particolare. Cioè, il divenire della vita sul pianeta Terra, io ricordo bene, cioè, quando ero piccolo c'è stato un mio parente, abbastanza vicino tra l'altro, con il pomeriggio uscito per andare a lavorare. E a casa non c'è tornato. Gli ha preso un bell'infarto, fine. Specialmente chi arriva intorno ai 50 e over 50, questi sono per periodo buono, perché pare che l'infarto, insomma, quello che ti stecca, colpisca in questa fascia di età, quella persona che gli accade, cioè avrà 50 anni. Che andiamo a raccontare a nostro signore? Siamo pronti? Siamo in grado? Siamo capaci? Ce la facciamo? Noi dobbiamo essere sempre pronti. Allora, andiamo avanti. Quindi, dice San Tommaso che nel giudizio particolare, alla luce di quanto detto, c'è la presa di coscienza immediata, la sentenza scatta immediata. E l'esecuzione della sentenza viene immediatamente eseguita, voi sapete, cioè il giudizio richiede una terminologia mutuata dall'ambiente forense, io questo l'ho studiato, no? Allora, nella giustizia umana, allora, che cosa c'è? C'è un processo che viene fatto, che dura del tempo, il processo porta a una sentenza, se la sentenza è una sentenza di condanna, poi deve essere eseguita, no? Se è stato condannato a morte, ci vuole boia che ti ammazza. Se è stato condannato all'ergastolo, ci vuole qualcuno che ti porta in galera e ti chiude dentro la cella, insomma, no? D'accordo? L'esecuzione della sentenza. Ora, in un giudizio particolare, come quando ci troviamo nelle cose che riguardano Dio, è tutto un attimo. Ecco la canzone di Anna Oxa. È stata istantanea, subito. Presa di coscienza, quindi processo, sentenza. Termine del processo, esecuzione della sentenza, corollario del processo. Ed è evidente che il posto eminente, preminente, non è nel giudizio particolare il processo, perché il processo non c'è di fatto, perché cioè c'è ma non c'è, perché è una cosa istantanea. Quindi l'importante è il verdetto e l'esecuzione. E attenzione che di tale verdetto, ecco proprio il punto dei punti, l'uomo conosce chiaramente la motivazione. E guardate che, cioè, io ve lo dico da sacerdote, no? Ci stiamo avviando verso la conclusione, quanta fatica che si fa tante volte con le persone, cioè io dopo a un certo punto io dico, senti, cioè un sacerdote capisce un pochino, molto alla lontana, se credo, il cuore di Dio. Dico, guarda, allora, quando un sacerdote deve fare, come dire, una correzione, deve riprendere qualcuno, deve aiutarlo magari a prendere coscienza di una cosa che non vede, è una delle cose più difficili che esista al mondo. Perché dentro di noi è proprio, come dire, è proprio radicata la tendenza all'autogiustificazione perpetua. Sapete che ci stanno i detti dei romani, quando uno comincia a parlare dice, oh guarda, non è per questo, però io devo fare così. Se dice non è per questo, i romani dicevano excusatio non petita, accusatio manifesta. Chi te l'ha chiesto di fare una cosa del genere qua? E guardate che questo proverbio funziona quasi sempre. Allora, può succedere che tu hai a che fare con un'anima, cioè io questo ve lo dico perché il cuore di un sacerdote, la mente anche di un sacerdote, anche per la grazia di stato che riceve dal Signore, un po' per la preparazione remota, prossima e per l'esperienza che può accumulare nel corso del tempo, un po' perché il Signore, io lo vedo, cioè ti aiuta in continuazione perché nessuno, cioè, quale essere umano lasciato a se stesso potrebbe fare il sacerdote? Nessuno. Allora, però dentro questa realtà è chiaro che poi c'è la carità cosiddetta pastorale, cioè che Un sacerdote vuole, se è degno di questo, vuole il bene della persona. Lo so che se dovrò dirti questa cosa ti farò soffrire un po', perché nessuno è contento di dover scoprire un lato oscuro di sé, un difetto, una condotta da correggere. Nessuno. Ma che facciamo? Se io non ti aiuto, tu starai male. Perché il peccato è morte, guardate che io queste cose le ho vissute, purtroppo delle volte cosa succede? Che per lo zelo, per la voglia, che ti dispiace, d'accordo, vedere questa cosa qui, magari uno esagera pure un po', perché pensate a quanto dispiace al nostro Signore, però il nostro Signore molto delicatamente ti dà degli input, dopodiché fa un passo indietro e aspetta, pure lui è un grande paziente. Un grande, si può dire attenditore, non credo, no? Ma uno che attende, uno che è paziente. Io sto alla porta e busso. Perché questa difficoltà? Perché la persona non la capiscono, dice: ma questo ce l'ha con me, ma che dice? Ma mi ha frainteso, non mi capisce, non è vero quello che pensa di me. Per carità, un prete è un essere umano, è fallibile, non è mica, per carità, non è mica il Padre Eterno, no? È un padre, non è il Padre Eterno. Però, in base all'esperienza che c'è, ora, nel giudizio particolare, questo non accade perché la motivazione è chiarissima. Noi non potremo dire: no, che cosa mi dici? Di che cosa mi accusi? Questo non è vero. Non lo potremo dire. Non lo potrei, perché sarà palese, evidente. Quindi la motivazione è chiaramente conosciuta, ma sarà conosciuta anche l'incontestabile giustizia dell'esito del giudizio particolare. Incontestabile, perché Dio te la fa vedere. Allora, volendo concludere, le ho già dette alcune cose, no? Così archiviamo il giudizio particolare. Per fare in modo che questo giudizio sia leggerissimo, ci sono alcuni accorgimenti. Numero uno, la cosa fondamentale è vivere da grandi amici di Gesù e di Maria. Perché se la tua volontà è buona, e questa è la buona volontà, troppo frettolosamente messa nel dimenticatoio. La buona volontà è la nostra salvezza. Cioè, se tu hai una volontà buona, cioè se tu sinceramente nel cuore, e questo lo sai anche tu, e Dio lo vede, cerchi il Signore, vuoi servirlo, vuoi amarlo, vuoi conoscerlo di più, quindi non faresti un peccato ad occhi aperti, sei già sulla buona strada. Chi sta in questo modo non deve temere il giudizio particolare, perché il giudizio particolare deve essere temuto non da chi è amico di Gesù e di Maria, da chi porta i loro nomi nel cuore e li ama, perché per chi li ama loro vengono come amici, certo, anche per loro, anche dinanzi ai loro amici devono essere imparziali, devono essere giusti, perché non ci sono figli dell'oca bianca, ma insomma una persona che vive nella buona volontà, che ha sistemato i conti con il passato, che ha fatto la confessione generale, insomma, rischia fino alla fine, per carità, perché il demonio ci tenta fino alla fine, però se tutto va bene, è difficile che va a finire dannata, no? Dobbiamo chiedere sempre il dono della perseveranza finale. Il problema grosso, e questa catechesi dovrebbe servire a scuotere soprattutto queste coscienze, è chi non sta in questa condizione, è chi sta già rischiando e lo sa, in fondo lo sa, perché si rimette in carreggiata il più presto possibile. Perché poi, arrivato al momento del giudizio, quello che c'è stato, c'è stato. E come dicono i francesi, rien ne va più. I giochi sono fatti, sono finiti, non si torna più indietro, non si possono più cambiare le carte in tavola. Quindi teniamo presente questa cristallizzazione, questa radicazione, se mi si passa questo termine, della volontà nello stato in cui si trova. Ecco perché gli angeli hanno detto pace in terra agli uomini di buona volontà. Perché gli uomini di buona volontà l'accoglieranno la pace del Signore. L'accoglieranno la parola del Signore, cercheranno di servire il Signore e non troveranno un giudice inesorabile, ma troveranno un giudice clemente, clementissimo, un amico, prima che un giudice. Bene, amici, direi che possiamo con questo più o meno consegnare nelle mani del Signore il giudizio particolare. Mi raccomando, arriviamoci preparati. Prossimo tema, è sempre meglio procedere per togliersi i denti, quindi ci stanno inferno, purgatorio e paradiso, no? Seguiamo lo schema di Dante Alighieri, prima le brutte notizie, poi le intermedie e poi le belle notizie, quindi seguiremo quest'ordine. Certamente quando si parla dell'inferno le notizie non sono un granché, però anche qui meglio saperle prima tante cose, piuttosto che doverle constatare quando non è più possibile porvi rimedio. Dio vi benedica e la Santa Vergine a tutti e sempre vi protegga.